che ho fumato questo bong mi sento meglio. Sembro sveglio ma no. Sa grandi artisti servono grandi strumenti. Domani compro un bong da 1,20 m. Un metro e venti. Idea. Mi faccio school tatuato sulla schiena tutto a pezzi Ikea. Compro una sera senza patente. Vuoi essere mio amico? Abbi pazienza, abbi patente. Ascolti rap tra gentleman. Io de gentleman, odio la gente. A volte penso che potrei fumare meno. I rap servono gli articoli. Bond a 60 centimetri. E gimmi gimmi gimmi che cazzo credi? Ritorno dello Yeti che mangia pure lo Jedi. Torna a casa senza bicicletta a piedi. Non chiama più da un po' se venda la ippone. Negri, rapper di Pitone, Crocodile Dundee. Rapper più fattone, Crocodile MC. Cammino storto per la stanza, alfiere. Trenino con tua mamma, ferrovie. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Parlo con nebbia come il nonno di Ai. Qui c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Il nonno di Ai, il nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Parlo con nebbia come il nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Di nonno di Ai, di nonno di Ai. Ordinanza di sgombero. Esco di casa e per fortuna c'è la SEA. A cosa serve la patente? Niente. Ci vivo solo e ci registro anche la gente. Ed hai notato che i prezzi del Lidl salgono. Per ogni nani da giardino in saldo. Ma magari compro brontole e lo metto sul terrazzo. Bastardo tu c'hai pisore, non ti ha mai rotto il cazzo. Monday night fever. Ricordati le birre dentro al freezer. Io quando scoppio non ci faccio le granite. Sono squisite, un show buonite. John J. Rambo, P. Baracus, Kevin Costner. Tutti in fila come quando stai alle poste. Hai mai parlato insieme a Kevin Costner? Sì, ci ho parlato, c'ho la foto nella Seat, ho fatto il post. Parole a cazzo come quelle che scrivi nei dischi. Le aspiro Kirby, le lancio come un frisbee. Non fare il figo perché sai che ti perdi qui. Che c'è più nebbia che dal nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Parlo con nebbia come il nonno di Ai. Qui c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Il nonno di Ai, il nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Parlo con nebbia come il nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Di nonno di Ai, di nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Parlo con nebbia come il nonno di Ai. Qui c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Il nonno di Ai, il nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Parlo con nebbia come il nonno di Ai. E c'è più nebbia che dal nonno di Ai. Di nonno di Ai, di nonno di Ai.